siamo in missione per conto di Dio. Mattino di Luca Telese. Questa è l'unica domanda a cui non possiamo darvi risposta. La risposta la dovete dare voi. Noi vi possiamo raccontare le storie che attraversano l'Italia, poi l'idea ve la fate voi. Magari. Comunque, buongiorno a te. Buongiorno. Lo sapevi che ogni meteorite che si abbatte sulla Terra pesa circa 44 tonnellate e contiene il 10% di nichel? Quando si tratta di temi che portano a volte la civiltà. Che è una vicenda molto complicata, molto gravida di effetti. Ti bisognava capire. Robe da matti. Qui in questo paese in cui se c'hai uno stipendio di 1200 euro non ti danno un mutuo. Credo che sia veramente questa l'occasione per fare chiarezza. Un punto di PIL, pensate. Valanga di insulti. Vestito come un Dalai Lama, con una pashmina intorno al collo, con i suoi occhiali gandiani e il suo sorriso mistico, adesso il grande giro fa pure la posizione Zen, c'è il maestro Andreotti. Se uno vuol cambiare anche il carattere delle persone è più complicato. Cioè, la cosa incredibile è, non deve diventare una battaglia ideologica, non lo è, non lo è più. Cioè, oggi siamo ritornati in una situazione, a mio parere, di grande galleggiamento. E in una finestra vede Ho Chi Minh e nell'altra vede la bandiera di Guglielmo. Cosa e nell'altra fare? Vede la bandiera di guerra dei confederali. Non è che è la galleria della pop art. Dateci una parte sul palcoscenico, ciascuno ripeterà il suo copione contro gli altri, questo è ciò che ci basta. Popolo, popolo dei già svegli, buongiorno. Oggi è una di quelle giornate piena di notizie, ma veramente, il caffè di Totò Riina, Zutoto, è un marchio lanciato alla figlia, ma vi rendete conto? E basterebbe questo per discutere ore. Ma poi abbiamo lo Ius Soli che soccombe al biotestamento, poi abbiamo ancora le vicende della Banca Etruria su tutti i giornali, poi abbiamo straordinarie questioni che si aprono con il retroscena del libro di Quagliariello, con la condanna del sottosegretario Barraccio per l'uso dei rimborsi spese, e poi abbiamo Roger Waters, scusate, oggi lo omaggeremo con un richiamo a Pink Floyd, che si prende il Circo Massimo per 400.000 euro il 14 luglio, nel giorno della Bastiglia, un concerto solenne del fondatore dei Pink Floyd. Ma quante ne volete? No, c'è anche il dibattito sullo sparatore, ha fatto bene, ha fatto male, condannato con una pena superiore a quelli a cui ha sparato, ti credo, quelli stavano rubando un bacco, ma lui li ha colpiti per accopparli. Allora c'è molto da discutere, ma c'è un po' di gioia. Le italiane, la Juve e la Roma, si qualificano alla grande in Coppa. Qui con il maestro Giuseppe Caporale, direttore di Tiscali, in studio con noi. Buongiorno, buongiorno. Qual è di queste notizie la più importante? Beh, sono tutte sinceramente molto importanti. Chiaramente raccontano, secondo me, benissimo il rancore che attraversa il paese. Il rancore come categoria, è vero, interpretativa dell'Italia. Sapete che è l'ultimo parto del Censis del professor De Rita. Allora andiamo a sentire il pianto struggente di una donna di cui vi abbiamo parlato. Pensate, era il 99, andavo a lavorare a Milano, andavo a Corsico come in pellegrinaggio, perché l'unico posto dove potevo comprare dei mobili era l'IKEA, all'angolo delle occasioni, però conoscete l'angolo delle occasioni, e per me Corsico è questo simbolo. Bene, una donna ieri ha pianto a Corsico. Io in 17 anni ho dato la mia vita per questa azienda, non ho chiesto dei privilegi particolari, chiedevo solo che mi si venisse un pochino incontro, non ho mai chiesto altro se non di lavorare dignitosamente come ho sempre fatto in 17 anni. Siamo dei lavoratori, dobbiamo lavorare, vogliamo lavorare, io voglio lavorare, ma abbiamo tutti noi una vita. Marika Ricutti era stata spostata di turno, non poteva accudire i suoi due figli, di cui uno disabile. È entrata in conflitto con l'azienda, ha chiesto di fare gli altri orari, quelli che faceva sempre, è tornata a falli, è stata licenziata. E questo è il primo nodo di oggi, ce lo porteremo fino alle telefonate perché è una storia veramente straziante. Direi di sì, credo che purtroppo racconti bene questa Italia, l'Italia dove purtroppo i diritti arretrano sempre di più, pericolosamente, e chi è più debole soffre e spesso viene completamente espulso dalla società. Questo è un tema importante, un tema che la politica dovrebbe risolvere invece che accettare supinamente, se non addirittura in alcuni casi favorire. I gol di Roma Juve in Champions. Match point all'Olimpico, la Roma serve una vittoria contro il Karabag. Perotti, Strootman, Perotti, Dzeko, la parata di Seic, il colpo di testa a porta vuota di Diego Perotti, scaccia i fantasmi, secondo gol in questa Champions. Tedeschi punta l'area, ecco ancora il sinistro, a segno, ha raddoppiato la Juventus, la chiude con il primo gol della carriera in Champions League. Ci interrogavamo tanto sulla inferiorità, ebbene arrivano due prestazioni maiuscole e Roma-Juve vanno avanti. Sentite, il retroscena di cui vi parlavo ieri diventa importantissimo per la politica italiana, quello di un possibile accordo aperto da un sms di Di Maio in una chat di deputati dopo il voto fra la lista di Grasso e il Movimento 5 Stelle. Crimi dei 5 Stelle era prevedibile, lo smentisce a Coffee Break. Se è vero, c'è qualcosa di vero. Mario, ogni questo? Settimana arrivano indiscrezioni sempre diverse. Una volta la Lega, una volta è Grasso, fra un po' magari qualcuno si tirerà fuori il PD, Berlusconi il PD. Noi smentiamo tutto, perché questo è il loro meccanismo. Il fare accordi, oggi per esempio nasce il nuovo partito di Grasso fatto da queste tre forze, ma il loro primo problema in cui si scontreranno è trovare le poltrone per tutti. Annalisa Chirico attacca il presidente del Senato richiamandolo alla sua responsabilità istituzionale. Se dopodomani il capo dello Stato Mattarella si ammalasse, diventerebbe lui la prima carica dello Stato. Quindi io pongo un problema di sensibilità istituzionale. Forse doveva posticipare questo passaggio, almeno dopo lo scioglimento delle Camere. Anche se tutti i presidenti di Camera e Senato sono stati dei politici, almeno tre, Fini, Bertinotti e Casini sono stati segretari di partito. Ma attenzione! Gerignocchi, Giuseppe Calt, Gerignocchi sulla lista di sinistra, sfotte. Non so se hai notato, ma nel nome del nuovo partito della sinistra non compare la parola sinistra, comunque si vergognano persino loro a metterla, no? È comunque doppia virgola. E restano, però c'è questa indecisione sul logo elettorale che deve sintetizzare la visione politica di Liberi Uguali. Allora, i Liberi Uguali sono indecisi tra questi tre loghi. Prima questo, vedi, Renzi vattene, Liberi Uguali. Il secondo è questo, Renzi Pirla, Liberi Uguali. E il terzo è questo, Renzi Stronzo. Ecco, devono scegliere tra questi tre. No, stupendo, perché c'è un Lodo Mieli che ha espresso dalla Gruber, e ospite pure io, in cui ha dato un consiglio il maestro Mieli. Maestro Mieli ha detto, secondo me, se i Liberi Uguali non parlano di Renzi avranno tanti voti. E lì Dom è andato duro. Quale dei tre loghi secondo te sarà scelto? No, fammelo risentire. Non so bello. Se hai notato, ma nel nome del nuovo partito della sinistra non compare la parola sinistra. Comunque si vergognano persino loro a metterla, no? È comunque doppia virgola. E restano... Però c'è questa indecisione sul logo elettorale che deve sintetizzare la visione politica di Liberi Uguali. Allora, i Liberi Uguali sono indecisi tra questi tre loghi. Prima è questo, vedi, Renzi vattene, Liberi Uguali. Il secondo è questo, Renzi Pirla, Liberi Uguali. E il terzo è questo, Renzi Stronzo. Ecco, devono scegliere... Quale scegli? Delle tre ipotesi del maestro Cross. Ovviamente nessuna delle tre. Diciamo maestro che Gnocchi. Però quello che emerge è uno scollamento tra la politica e la realtà, no? Loro litigano tra persone, tra ruoli, e poi c'è la dipendente di Ikea che ha un problema vero e che nessuno risolve. Calenda, ottimista, dopo l'incontro col sindaco di Taranto, è stata una piccola manovra da manuale. Sapete che il sindaco di Taranto e il presidente della regione Puglia avevano annunciato un ricorso, è andato Calenda e ha detto scrivimi tu l'ordine del giorno, scrivimelo al sindaco di Taranto, e quello ha cambiato la sua posizione. Controllato molto bene, dopo l'incomprensione dei giorni scorsi ho accolto le richieste del sindaco e il sindaco ha dato disponibilità di considerare il ritiro del ricorso al TAR. Quello che è fondamentale sono, credo, anche gli incontri personali. Ed eccolo, Rinaldo Melucci, effetto giorno, ospite del nostro grande Simone Spezia. Sentite, è proprio la fotografia di un cambio di passo. Se un ministro viene a Taranto e dimostra di rispettare la comunità e costituisce quel tavolo come chiediamo, da istituzione, da amministratori, non possiamo certo continuare sulla strada del pregiudizio. Perché, capito, qui Giuseppe, la cosa folle è che stiamo parlando del più importante polo siderurgico italiano, produttore, uno dei principali produttori d'Europa, e arriva e si fa il ricorso, malgrado ci sia un accordo che va A, dalle istituzioni locali, B, le istituzioni nazionali e anche i sindacati, cioè anche Landini, tutti d'accordo, e si blocca tutto per un ricorso, sai, follia pura. Esatto, credo che ci sia l'intenzione di tutti di salvare un impianto fondamentale, tenendo sempre però insieme salute e lavoro. Però lì il problema è una ferita enorme, è una ferita che va sanata con intelligenza, senza colpi di mano, mettendoli tutti insieme intorno a un tavolo, e credo che la mossa di Calenda sia una mossa giusta. Il piano prevede proprio anche il risanamento ecologico e la sigillatura dei parchi minerari, che in questo momento sono purtroppo aperti. Boeri sulla promessa di Berlusconi. La pensione minima 1000 euro, come propone Forza Italia, è un'idea praticabile oppure come no? Come sempre bisogna vedere come viene finanziata. Credo che allo stato attuale fare una scelta di questo tipo vorrebbe dire far pagare più tasse agli attuali lavoratori. Credo che bisogna dirlo con molta chiarezza, e quindi si distruggerebbero molti posti di lavoro. Quindi non è praticabile. Bisogna che così molto tutto questo venga detto con chiarezza. Diplomaticamente ci ha detto che non è praticabile. È un bel dibattito. Dove trovi i soldi per fare cosa? Dibba si è ritirato, ma spara con la cannoniera più di prima. E poteva Dibba farsi sfuggire la condanna a 4 anni le spese pazze della regione Sardegna dell'ex sottosegretario renziano Francesca Barraccio? No, eccolo qua. Però andiamo alla sottosegretaria del Ministero della Cultura, Francesca Barraccio, che non so se sapete è sotto indagine in Sardegna per peculato. Ecco, abbiamo calcolato, Presidente Boldrini, che con 33.000 euro di carburante si possono percorrere 370.000 chilometri, cioè la distanza dalla Terra alla Luna. A questo punto avevamo un astronauta nel governo, Francesca Armstrong Barraccio, ma non ce ne eravamo resi conto. Che cosa dici di questa storia? So che l'hai seguita con attenzione. È un caso di cui si parla da tanto tempo, da quando si aprì l'inchiesta. Beh, sì, credo che insomma le sentenze vanno lette, spiegate, raccontate, rispettate. Bisogna attendere ovviamente il giudizio finale. Intanto emerge un giudizio politico evidente, ovvero una gestione poco attenta dei fondi e delle risorse pubbliche. Il caso della benzina è un caso eclatante, lei aveva un ruolo importante, era un sottosegretario del governo, insomma un grande imbarazzo per tutti, credo. Allora, io avevo intervistato la Barraccio quando si era aperta l'inchiesta, vi faccio sentire cosa dice lei per difendersi, perché qui siamo, come dire, severi ma garantisti anche nel sentire tutte le voci, poi il giudizio è un'altra cosa. Non posso nascondere, ma si vede. Sono un po' scossa, non è una sentenza politica, non sono complottista, non lo sono mai stata, però l'avermi messa ad affrontare in solitudine rispetto ai miei colleghi, gli altri 30, questo processo credo che abbia dei profili di dubitabilità importanti. Però vedi, qui c'è un nodo, mi piacerebbe discutere con la Barraccio, ma non sono complottista, però mi hanno messo da sola davanti al processo. Il problema è che le hanno contestato, mentre il giustificativo diceva che era in viaggio nella Sardegna del Nord e la sua carta di credito strisciava a Cagliari. Cioè, quindi il problema non è un complotto, il problema è come spieghi quella spesa. Assolutamente sì, parliamo ovviamente di rimborsi benzina, parliamo di una vicenda, come dire, che va circoscritta, però sicuramente grave per quanto riguarda un pubblico amministratore. Quindi, ripeto, ci vuole serenità di giudizio, però credo che il tema vero sia la responsabilità politica. no, da sotto altri aspetti potremmo dire parva materia, ma in questo caso parliamo di un sottosegretario che aveva un ruolo politico su cui si fondavano nuove speranze, perché comunque questa era la nuova classe dirigente. Parva materia, beh, siamo a livelli altissimi, e c'è una coppia che quando si incontra in uno studio c'è sempre una scintilla. Si incontrano Fiano e Sallusti. Tutti i partiti democratici di sinistra hanno protestato tutte le volte che a Bologna gli studenti dei centri sociali hanno interrotto i discorsi dei professori. Lei di cosa parla? Non ci siamo lasciati scappare un'occasione. Che paragone è? Questi signori vogliono far dimenticare che qualcuno per l'odio ha portato a gasare e bruciare milioni di persone. Cosa c'entra? Quella è la storia d'Italia. E questa volta non si può che non sottoscrivere l'obiezione Fiano, perché ovviamente o si condanna una violenza o si condannano tutte, meglio condannarle tutte. Allora, noi ci avviciniamo a Già Svegli, il momento che io più amo di questo programma. Ricordate, per aggiungere il vostro obolo memoriale, la segreteria telefonica 02 30 22 44 92 349 238 6666 per i vostri messaggi che ci aiutano a navigare qui a me e al dottor Giuseppe Caporale. Fra un istante, sempre qui 24 mattino. Ma santo cielo, ma non avete niente di meglio da parlare? Già Svegli. Dalla Gruber, caro Luca, ti ho guardato. Devo dire che ultimamente io ti trovo un po' ingrassato. Perché poi viene Natale, attenzione al panettone, se no poi dall'anno nuovo io ti chiamerò Lucone. Io sono sveglio perché tutte le mattine vado a lavorare e mi sento alle 24 e tu, Telese, sei il migliore. Luca, sei veramente grande. Io sento Radio 24 giorno e notte, notte e giorno. E la storia mia è lunga, perché sono parecchi anni che ascolto e sei in mezzo a sto bella trasmissione. Purtroppo, siccome Radio 24 e tutta l'organizzazione vive di pubblicità, se non ci stanno i denari non si può campare, giustamente. Il contadino e l'impiegato. Il contadino s'alza con il sole perché col fresco faticare vuole. Tardi si sveglia invece l'impiegato, ma a mezzogiorno è già tutto sudato. Popolo di Già Svegli, ma anche di rimatori. Ma c'è bisogno di fare la rima con Lucone Ciccione? Ma veramente... Io chiederò subito alla direzione di Confindustria di rimuovere Luca Sappino, Fulvio Benelli, Valerio Rocchetti, Alessandro Chiappini, Rachele Caracciolo, Lorenzo Notella per queste infamie contro di me che mettono in questa messaggeria. Questo deve essere il momento della lirica, però molto divertente, devo dire la verità. E tu, Giuseppe, fai delle rime la mattina? No, però questa era molto carina, bisogna ammettere. Ah, pure tu. Fuori, fuori da qua! Torniamo ai Pink Floyd. Ogni volta che sento questo riff meraviglioso, la voce trasognante ed epocale di Walters, la chitarra elettrica che squilla del grande David Gilmour, penso che siamo nella storia. E allora, attenzione, senti questa di nuovo Fiano contro Di Maio su Banca Etruria. Se vi capiterà una volta di intervistare il presidente Di Maio, potete fargli una domanda semplice. Qual è la legge che noi abbiamo fatto a favore di Banca Etruria? Così una volta per tutte la chiariamo. Io voglio conoscere il testo delle norme che questa maggioranza avrebbe approvato a favore di Banca Etruria. Che dici? Beh, lo scandalo banche purtroppo, che ovviamente non riguarda solo Banca Etruria, e questo va detto, perché lo scandalo banche riguarda alcune diverse altre banche coinvolte in aver distrutto i risparmi di migliaia di clienti, è un tema gravissimo, è un tema che purtroppo riporta, e poi ci lamentiamo del concetto, no, di questa società del rancore, ma se questo è un paese nel quale non si può neanche essere sicuri di investire i propri risparmi, sicuramente è un paese che arretra pericolosamente. Giusto. De Bortoli Ferruccio De Bortoli, che è uno degli oggetti del contendere di questa complessa polemica che da giorni cerchiamo di spiegarvi, è intervenuto a raccontare la sua verità, cioè la sua risposta all'annuncio di causa civile della Boschi a carta bianca, da Bianca Berlinguer. C'era cioè, scritto nel post di Facebook di Maria Elena Boschi: questo governo ha commissariato Banca Etruria. Siccome siamo in una fase in cui si parla molto di fake news, credo che si debba essere precisi. Il commissariamento l'ha fatto la Banca d'Italia. Poi il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proceduto, insomma. Ma non è il governo che commissaria una banca. Colpo di rasoio del... l'ex direttore del Sole 24 Ore del Corriere della Sera. Di Maio cita Goodbye Lenin. Oggi noi abbiamo davanti un altro film che è Goodbye Berlusconi. Sembra che si sia addormentato nel 94 e si è svegliato adesso, dicendo ancora che la classe media sta con lui. La classe media stava con lui nel 94, solo che l'ha tradita la classe media. La classe media adesso sta con noi. Basta vedere i numeri, abbiamo il 30% di statistica, la classe media sta con noi. Quelle persone oggi stanno con noi, diteglielo a Berlusconi che si è svegliato dopo 20 anni di sonno. Con chi sa la classe media, Giuseppe? Forse la classe media quasi non c'è più, nel senso che la classe media è impoverita, è arrabbiata e quindi probabilmente no, è tesa tra credere ancora a ciò che dice e racconta Berlusconi e valutare l'ipotesi del Movimento 5 Stelle, oltre che sicuramente è una proposta che anche il PD e la sinistra metteranno in campo. Sicuramente la classe media è quella che ha pagato di più lo scotto di questa crisi e soprattutto le non scelte della pubblica amministrazione. Allora, buongiorno, il tuo ospite è pieno di buonsenso e tu sei piacevolmente cicciottello. Ma cos'è un complotto stamattina? Cicciottello, non magro al massimo, non magro. Bebe Vio su Mattarella. Ma è tranquillissimo, è veramente simpatico. E la cosa che mi sconvolge di più è che lui riesce a sorridere mentre parla. Io penso sia una cosa bellissima, cioè ti incanti un po', no? Prima di diventare presidente devo imparare a sorridere mentre parlo anch'io. Mi farò fare un corso davvero. Beh, però io capisco le apologie presidenziali, siamo tutti contenti. Però diciamo Mattarella non è l'unica persona al mondo che riesce a sorridere quando parla. Senti qua, Zanda insiste sul fatto, cioè battaglia sullo Ius Soli e le opposizioni dicono che con questo calendario si affonda la possibilità di votare quella legge. Formalmente lo Ius Soli esiste nel calendario, ma metterlo come ultimo argomento è una presa in giro ed è una ferita molto grande, Maria non Cecilia solo per Guerra. L'importanza del provvedimento, ma anche perché degli impegni erano stati presi, eravamo a un passo da farcela, è stato rimandato, questo significa francamente affondare. E la risposta di Zanda? Non è così, contenendo i tempi di lavoro, questo programma è un programma realistico. Su proposta sempre del Partito Democratico, il calendario si è spinto anche a prevedere i lavori dei primi giorni dell'ultima settimana prima del Natale. È l'episodio più importante di questo fine legislatura. Secondo te è sepolto o, come dice Zanda, ci si può ancora arrivare a votare lo Ius Soli? Quello che mi preoccupa è un po' il clima che accompagna queste, no, l'approvazione di queste riforme, di queste leggi. Non so quanta serenità e quanta lucidità poi ci sia nell'approvare norme che poi toccano la realtà di milioni di persone. Probabilmente ci voleva un tempo diverso, ci voleva molta più possibilità di ragionare, di entrare in temi così delicati. Probabilmente, come sappiamo purtroppo ormai bene da un po' di tempo, lo Ius Soli è divisivo e non farà parte di questa legislatura. Forse andava studiato e ragionato prima, ma anche tante altre leggi forse hanno un po' il sapore della fretta. Caro Delese, come ha detto una persona, sembri Hitler uscito da McDonald's. Ragazzi, piano con gli acidi lisergici di prima mattina. Capisco tutto, ma quelli sono preoccupanti. Ciao Giampiero, 54:30. Noi ci firmiamo il giornale radio, ringraziamo Giuseppe Caporale e poi torniamo con la rassegna stampa. I cani e i gatti, sì!